c'è nessuno per una prova radio? Prova, oi. Non vieni su. 1, 2, 3, prova radio, non c'è nessuno, 10. 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3, prova, c'è nessuno? Attento, Fabrizio. Ciao. Fabrizio. Eccomi qua, ma mi ascolti o è sempre bassa di radio? Bassa. Ascolta, niente, comunque è bassa. Niente, adesso provo a fare la modifica delle M80 e togliere il transistor per dare il doppio modulatore. Tra un po', se ci sei, ricordati questa modulazione e poi vediamo cosa succede. Ci devo lavorare un po'. Sì, sono qua, lascio con lo squelch questa radio, ma sento un sacco di vento, di rumore fermo. Qua sempre vento le quante noi vuoi. Come si faceva per vedere il segnale in questa radio? Cosa si spingeva? Si capisco, no, c'è troppo rumore. Ho abbassato l'amplificazione, così mi ascolti o no? Così ho abbassato un pochettino. Adesso un po' meglio, dai. Mi stavi dicendo? Come si fa per far vedere lo smitter, il segnale in questo apparecchio? Fai vedere, vai, parla un po'. Guarda un attimino, hola. No, c'è qualche tastino. Prova. Ah, forse hai schiacciato SWR, tu hai schiacciato. Prova a vedere, tuggilo. Prova. Signor Refini. Prova. Hola. No, no, segni, non vedo il segnale nello smitter, perché? Cosa cavolo c'era qua? Cosa si è stato toccato? Cos'è il tastino? L'altro giorno me l'ha fatto qua. Forse è così. Prova. Guarda, un po'. Refine, prova. No, non è quello, aspetta. Ecco, forse l'ho trovato, vai. Guarda, uno. Sì, c'era un tastino inserito. Allora, io non so cosa ci sia qua, l'unica è lavorare sul modulatore se si riesce a fare qualcosa. Come ti ho detto, non so niente cosa gli possono aver fatto, anche è già un miracolo che sta andando così, quindi fammi vedere un po' se riesco a fare qualcosa sul modulatore, aumentare, fare qualcosa, dai, sui filtri, non lo so, devo vedere un po' lo schema. Dai, sono qua, nel caso non ci avevo pensato a scendere giù, capito? Allora, questo microfono, allora tieni presente che io ho il volume più della metà per ascoltarti, Già questo non è normale, vabbè, vediamo cosa riesco a fare, ci sentiamo dopo, dai. Ehi, sono qua, dai, al limite chiamami al telefono, uno squillo capisco che vuoi sentire. Va bene. Chi è, avanti. Buonasera, Daniele da questa. Ah, ciao Daniele, e allora? Aspetta che ho un microfono messo male. Mi senti, sì? Gappa, forte e chiaro qua. E allora, dillo. Daniele, riconosciuto mi hai? Chi sei, Tino? Ehi, un altro apparato, dai. Un altro QTH. Va bene, va bene. Qua sei segnale 7, ma lascia desiderare. C'ho anche il microfono messo male. Vabbè dai, sono zona Pancari. Sì, a voglia, già sta arrivando. Aspetta. Guarda, ci ha aumentato qualche cosa. 1, 2, 3, prova. Un pelino sì. Un pelo quanto? Guarda bene. Questo smitter è tirchio, là, in tutti i sensi. Vabbè, guarda, così. Ora, così. No, adesso ha diminuito. potenza, non so, cosa di bassa potenza, dai. Cappa, va bene, sei il segnale, la radio è aumentata, prima restava leggermente più cupa, dai, quando eri a 7. Perché questa va utilizzata così, capo. Oh, ma poca roba, ti, la differenza è poca, che si mangia la radio quando attacchi. Lo so, aspetta, passiamo, dai. Oh. Ora, adesso mettiamo, togliamo anche l'eco, che tanto a me l'eco non mi piace leccare a quest'ora, soprattutto con i mastichi, quindi. Ai voi. Anto, tu sì. Pensi voi che sia. Ciao, vabbè, come va questa radio? Questa è la gemella, La gemella, sì, la gemella di Ipa. Quella che hai visto tu. Sono a casa... un amico. Ah, non sei a casa tua. Ah, perché lo so segnale oggi a Gira. Cazzo, così mi sparo. Ah, perché non lo vedo io. Qua siamo allo scala. Quindi, dove sei? No, sono giù in campagna. Bene, bene, no. Va bene, va bene. Va bene. Oh, c'era Fabrizio poco fa che cercava di chiamare qualche due, non c'era nessuno. Ha detto chi? Occhi di gatto. Ah, cercavo di chiamare qualcuno, io sono aperto, ho acceso adesso, sono arrivato adesso in campagna, devo prendere le cose da accendere, ti saluto. Non è che dici, se c'è tiro gli offro un bicchiere di birra, no? Un saluto. Anche la birra se la tu, c'è nessun problema. Lo so. No, sono ancora qua che stiamo cercando di mettere una. Configurare una telecamera, quindi. Adesso vediamo un attimino. Bene, bene. Guarda che molto sicuramente domani sono libero, se ti interessa fare quel lavoro lo facciamo, Sì, domani devo. Sono sarei libero anch'io domani. Però devo andare all'aeroporto a compagnare il giudizio. Tu già, già è nulla. A me vedi. Devo andare lì, infatti devo essere lì a 3:30, quindi va bene, guarda che c'è anche Daniele, dai Daniele. Che me, buonasera, salutoni. Ciao Daniele, buonasera. Aspetta che trovo anche il bip, guarda se c'è. No. Fastidioso questo bip. Fastidioso come un dito nel foro con un po' di sale. Ho detto che è fastidioso il bip, come un dito nel foro con un po' di sale. Ma Gianni, lo prefetta, l'avete sentito? No, io diciamo che l'ho acceso adesso perché mi hanno chiamato per un controllo e quindi sono entrato così, sennò non sarei stato qua. Andare. E quindi hai risolto il problema? No, non è mia questa radio. Ce l'ha in prova Fabrizio. Sto aspettando perché me l'ha fatta sentire della bassa di modulazione, adesso lo sta. È sotto i fermi. Ah, la sta operando? Sta operando. Bene. Bene, ecco, qui ti ha chiamato per avere un controllo perché non c'era nessuno. Vabbè, però il controllo lo devo vedere, qualcuno che ha un apparecchio discreto. Cosa vuoi insinuare? Perché la dico io qua? Mica ci sono facendo gli altri. Mi. Ma cosa accendi gli altri? Solo che se c'hai gli apparecchi ancora a cicca, quelli come il trattore. Ah, vero. O buscalo. Però. Guarda, ho un Ruiz qua a fianco, il Saturneco, il grande, un altro Saturneco che non voglio neanche dei collegati. E poi non ti dico gli altri nomi. Lo so, conosco gli altri. Solo che sono la parte CP, non la parte radioamatoriale. lo so, la parte radioamatoriale sono più intrigante, si perca perché andiamo. Già va bene. Tu come l'ho messo, vedi come sto modulando? Tu? Non lo so, con cosa stiamo modulando, però sì, ogni tanto lo annischi. Lo so, ho modulato, ho il microfono che ci sono i fili appoggiati e legati con la presolata. Bravo, bravo, ma sempre con il pacchetto di sigarette? Peggio, sempre peggio, sempre sarà peggio. sera che me ne preparo uno e lo lascio qui e basta. E visto che ci sei da far niente, domani ti metti all'opera, se lo fai. Lo so, domani però, domani mattina se vuoi devo andare all'aeroporto alla una, poi domani mattina devo andare a compagnia perché non so più come cosa, vabbè, quindi già domani ce l'ho sempre la di mattina, di sera cosa ho finita, ma che non la giocare. Il negozio ho finito avete? Per il momento sì, io sì, stavo andando una pulita, poi ci sono delle cosettine dell'ultimo momento, ci avrò limite salva, però dovrebbe essere tutto a posto. Poi niente, il martedì devo mettere la caldaggia, però per il momento ci vedo. Domenica, la pubblicità per domenica. Ah, ho capito, va bene, dai. Lo lasciamo a buon punto. Adesso domani mattina lì. Se c'è un attimino, Cristian c'ha la macchina bianca lì, però andiamo a prendere quelle due grappe. Bravo, là. Così almeno ce l'hai lì a disposizione. Andavè, ho dovuto andare a casa poc'anzi a spostare la bitumiera, che l'ho portata un po', e una settimana di lavoro, grazie. Adesso vediamo. Bene, sì. Solo che devo procurare di pezzi di ferro, adesso che mi sono rotto il piede, scaricandola, perché l'ho impennata praticamente, no, per non fare lo sforzo. L'ho impennata nel muso pratico, sarà anche se piegata, vabbè. Non fa niente, si riparerà. Come, ma questa è una cosa, ma questa non è ecco adesso, vero? No, ma io non sento niente. Ah, ecco, vedi? Così è senza ecco. Ora, adesso l'abbiamo inserito. Senti un po'. Ehi, vabbè. Mi piace così solo. Daniele. Sì, Daniele, ma non so se ti ascolta, tu sei basso, Daniele. Ehi, ha già ascoltato tutti io. Tu ne è basso, vero? 5 sta arrivando quanto, ma già si ascolta bene, senza problemi. Lui se ne sta approfittando, Daniele, che già lo so io, sì. Ah! No, è che per dare i controlli giusti faccio nell'altra radio, capito? Sì. Hai capito che ti metto la bocca? Guarda che io uno qua, no, non mi voglio accendere di collegarlo, sei marcia. Ma avrei compreso che io allo 6, io mi ricordo tanti anni fa, allora dicevo, io sì, sta facendo questo, avrei compreso che io vado in macchina, vado sotto casa una persona con il vasto e ti faccio il battimento zero. È vero, infatti non è detto che uno può essere anche forte in trasmissione, ma l'altro può essere forte in ricezione, cioè la nulla. Ma mi ricordo quando dopo fa c'era anche Simba, te lo dico di Simba. Geminiano, Geminiano, sì. Si cantava sempre tutto, parlava con Paolo. Cazzo, ti fai non far parlare nessuno, ti fai i discorsi con la cosa. Ma la viene si stava invece me la portando, ma non ti dico io, una sera lo sto parlando, sto cantando di Paolo, ho passato l'antenna, ma venda, va. Per cui andava in furgone, L'ho conosciuto, conosco anche il figlio io. Sì, lo conosco bene, andava con me, Manuel. A Big Jim. Sì, già lo so, conosco, a voi. La farina da birra, Che che sia fresca, mi raccomando. Daniele, lascialo perdere che passo quello lì. Parla con i più forti. Va bene. Peggio per lui che lo si attrinza. Si è da trinzare anche lui. Oh, questo microfono che un po' scorreggia. Acciaccato, è un po' messo male. Più che scorreggi sembra che stia prendendo colpi, gli stai tirando dei pugni sopra la capsula. Ma lo devo tenere così, perché sennò fa male, lo so. Come ha picchi positivi questo, sì? Ehi, a voglia, passi da 6 a 9. Ehi, a me passi da 3 a 2,5. Già va bene allora. Aspetta che abbasso i batti. costa parecchio dai vani. No, ma lo vediamo. Guarda adesso, Daniele, che tu sei più lontano, guarda, Sì, passi da 6 a 9 fischiatti. Oh, ya, da poco, ok. Allora, per quanto mi hanno detto, ci sono 70 watt qua dentro. Ma tutti assieme o spazi? Questo lo ignoro, però ci sono, perché già va. Qua, per davvero idea, c'è lo stesso segnale di Antonio. Figurati, io sono ancora molto più avanti, io sono zona bancaria. Sì, no, non ho capito, spiegami, ho detto Daniele, scusami. E avete lo stesso segnale. Come sono in campagna? Sì, ma in due parti. E io lo stesso sono in campagna. Bisogna fare bene il filo di questo microfono. Ma tu non sei come su io? Non sei a casa tua, ok? Ho bianco un secondo. Ehi, dai. No, sono qua, l'ho messo l'antenna tu. E quando mai tu sei così basso? Come basso, Antonio? Sei basso. Mi hai capito, ma lui ha detto che abbiamo tutto il segnale. Come cazzo faccio io a fare? Scendo con i bassi, io ti scendo, ho cominciato la risalita, sì. Vabbè, ma lui ha... Ma che così, dai, perché il segnale vero e proprio non ho visto. Dai, non riuscivo a capire, perché se ti ho fatto io qua, ripeto, non mi ho smesso che tu vieni in Italia, dopo che sei qui cinque arrivavo fino a me 30. Vabbè, anche se questo qua è quello, era di Chirino, non so. Sì, capisco, un po' che sto portando, sta lo chiamando almeno, almeno più di 20 fatti. Ci sono tre fatti, c'ho la tena a capo. Ti consiglio che vengo con una piegata. Meno male che l'ha coricata dall'altra parte, e non sui cavi elettrici. Ma scusa un attimino, adesso tu puoi fare un'altra cosa. Prendi un... Ma se vuoi te la do io, ho un po' di lenta di quella... mi sembra che c'era la 50, la 45, non mi ricordo. E poi un filante... Mi attore che oltre non va, hai capito? Non si consenti che io in realtà la volevo spostare nell'arco di dietro per fare modo di poterla sollevare, perché sennò così con le radiole appoggiate al tetto che cazzo di significato ha? Anche quello è vero, anche quello è vero. Si farà anche quello, quando sarà attento. Solo che il palo l'ho portato e non l'ho voluta sollevare l'altra volta, perché quando l'ho messa, l'ho presa, l'ho sollevata poi sul palo, questo c'è questa cosa ci punta la fine, lui è venuto su in casa, ho detto che ho paura, allora ho detto no, non lo faccio, metto due passi dietro, metto il capo, con calma, sempre con calma, sempre quando ne ho voglia, sempre mai. Già va bene, già va bene. Aspettiamo, vediamo un po', quanto domani posso organizzare il lavoro per lunedì, e poi lunedì, insomma, una settimana là e... una volta che iniziate può iniziare, diciamo che devi fare la prova tu, un po' preciso. No, sì, non c'è nessun problema, lo possiamo fare anche dopo una settimana, tra 10, cioè tra 10 giorni, io me lo posso organizzare per avere tutto quanto qua, non è una cosa imminente, è che adesso fa un po' al caldo, ci sono più spesso, ci sono più minimo, bravo, sì, va bene, c'è problema, chiaro, ma c'è. Ha fatto l'anestesia e tu sta operando. Allora, ti ho messo il microfono, hai fatto? Oh, devo stare fermo, eh. Sì, ma per un attimo sono uscito più forte dell'aria, quello lo trovo più falso. Aspetta. Hola, hola. Vabbè, ma c'è qualche... si è interrotto, eh. Secondo me è un problema del pulsante, è possibile? No, no, perché muovo il capo, lo fa. Allora sì, sì. E vabbè, col tempo già lo sai che i cavi dei liti, non quelli là, e quelli giù, si mangiano e si disintegrano. Io ne ho trovato due l'altro giorno, stavo cercando le cose in garage, due alla stessa. Le prendate hanno, non sai quando le ho prese in mano, hanno un cavo che si è volatilizzato, sciolto. Ma quali? Quelli quadrati e amplificati? Sì, quelli amplificati da Palmo, quelli da Lala, la CTX, che ha fatto l'F10, che la sono amplificato, l'F16 ha amplificato quel tipo, l'F24 ha amplificato il tipo, ecco. Però hanno tutti quanti i cavi troncati, si sono sciolti praticamente i cavi, sono polverati. Vabbè, ti metti la molla nuova, ce l'ha quella, ti metti la molla nuova e va bene. Ah, ce l'ha Fusaro? Ce l'ha, 4 più non mi sembra che ci sia. Sì, non lo sapevo, insomma ne ha messo più di questo cose, ormai, ormai non ha resistenza, io ho giocato. Ma vai perché ne ha solo uno, Ah, pure? Sono andato, me lo voleva dare per fare per il sensore. Mi stavamo pure detto, no, lascia così, come dai, 3 metri di stavo tiralato per fare un servizio a 500 metri. Sì, infatti, sai che mi fa scuola, molto più dopo. Ma non solo su queste cose qui di marchini, si trovava proprio roba in generale per le elezioni. Va bene, io l'ho fatto. Ormai, vado a morire, va bene. Con questo approcato come noi, mi sono fatto al centro. Io mi sono preso le M43 da internet, dalla Cina. Ricordami, qual è? Ah, sì, certo, se lo ricordo, vedi, ah, quello che hai preso? Sì, perché c'è lo sconto delle cose del bus, le gambe si vedono cazzo di M60. E beh, quanto te l'hanno fatto pagare? Tra viaggio e tutto? Spara. Molto 20 euro. 16 euro e 50. Sì, che vergogna, cazzo, neanche il nome. Ma davvero, me? Questo io l'ho detto. A me l'ho detto, cazzo, portava 50 euro. Ma cazzo, se non si dice 50 euro. Mi arriverà il primo di luglio, c'è scritto, no, non cazzo. Ma nuovo originale oppure seconda mano? Ma no, nuovo originale marchiato Kempo, l'originale Kempo, che invece con la F3S. Buono, si costava intorno a 50 euro. Infatti l'ho preso, ho detto, ma non è male, quando faccio la radio, ti do quello che ci sono stata, lo faccio fuori l'altro, no? Certo, tanto non funziona, sì. Poi già funziona, che ci mette le mani sempre, già funziona, che non ho tempo, francamente non è che non ho tempo, che non ho lo spazio giusto per dedicarmi, il tempo ne do la fortuna che non vuole la sera, ma che sono fatto, ma ora devo avere lo spazio giusto, io posso inventare, io quando faccio questo lavoro qui, cioè non devo concentrare, non devo usare così, dove mi trovo, che sennò poi c'è il rischio che faccio più danno che altro. Vabbè, io veramente non riesco, io posso montare la carta e guardare con voi, già pronto. E vabbè, da lì, sinistra, molta gente ha iniziato a tornare, io conosco dei ragazzi che hanno lavorato con me, hanno iniziato a fare la televisione, che venivano per guardare, aprivano i televisori, c'erano i miei capelli, quello, si facevano le battute, e dopo un annetto già qualche anno c'è la sorriera, no? Si impara facilmente, quindi davanti averne voglia a essere, come si dice, devi essere comunque, devi avere piacere con la lavoro, perché se non ti piace non mi fa quanto di cammata. Ma lascia perdere come è stato per me, no, ti posso mettere un frecciamento, ecco. Sì, è cacciato. E poi quando si secca la sorriera facciamo un tocchino. Daniele ancora c'è, Daniele? No, si è spostato un attimino. Beh, no, non si sa mai, io mi avevo entrato per tenere scrive. Eccomi, eccomi. Mi avete fatto venire voglia di birra. Beh, la birra, colpa la mia. Colpa tua, hai dovuto andare in frigo. Ah, questo dove era tanto la uscita. Già c'è il supermercato sotto casa. Ma c'è bella grande comunque la casa, ci ha messo 3/4 ora per andare questo nuovo di birra. Vabbè, l'avrò messa in frigo qui. Beh, l'ho messa nel congelatore un po'. Ragazzi, voi io non voglio neanche quello, ok? Ma non è il congelatore o non è la birra? Tutti e due. Ma non c'è niente nel congelatore, vedi? E lo dici, vedi qua tra parecchie che qua fatto 100 tazze di birra. Gava. Comunque adesso se c'è un attimo domani, quando rientro, ti do un'occhiata con la scatoletta là, e vedo un po' di modificate di connessione, così la chiudi. Ah, ma la ecco? Sì, la scatola là, e vedo un po' di modificata. Sì. Perché io credo che quello debba funzionare senza stare lì a fare altre modifiche, cioè tu attacchi tutto il cuore deve funzionare, ti dà l'alimentazione e basta, è fatta esterna e esterna, non hai capito con cacchio. E deve dare una risposta a Daniele, quello di Cagliari, o Tassi, no Tassi, quello di Cagliari, a vedere se ci stanno dando una... un Galaxy. Scatoletta però fa, poi sempre ecco. Anche se io mi ricordo che tempo fa ne faceva una lunga che era il massimo, che era quella comunque la... che all'interno aveva la doppia scheda tipo quella col. Non mi ricordo come si chiama. E qui siamo da poco, su quel... su quel coso di Facebook dove c'è il mercatino Radio CB. C'era proprio quella lì, quella che... che andava di moda 200.000 anni fa. Ho capito. Sì, ma infatti io sono del parere di non modificare niente all'interno di appalti cui si mette all'interno, è che addirittura ti ricordi che vendevano la scatola la scatoletta e c'era anche il doppio piso, cioè al piso normale e poi la prima di sì. Sente casino sotto. Allora, senti, no, è tutto un casino, si sente alle volte sotto. Io sentivo poco fa sopra, anche lo sopra. Chiara, ma sembra che ci siano gli UFO. UFO. Oh, che sta provando a chiamare Fabrizio, non lo so, Fabrizio. No, ma il segnale è basso, intorno ai 5, una cosa del genere. No, allora, non è. Se Fabrizio mi fa due volte il giro dello smitter qua. Ma c'è una pressione di sulla rete, da allora. Capito, sono diverso. Intanto ieri ho recuperato tutti i... tramite Massimiliano, ho recuperato qualche documento e quindi ho anche verniciato la l'antiscienza, perché era, non ce n'era. Vabbè, non ho sbordato un pochino, però sono andato al tempo, lo sbordo quando non esce, mi rimane bianco, non è bianco sporco, è bianco vivo. Diciamo che uno è diverso, però va bene qua. Ma quei due li ho visto io, li hai tutti allora? No, ho preso qui. Allora, tu pensa che i primi tre sono gemelli, sia tre precisi, sia i pirati che i piccoli. L'altro, quello delle bande, è differente a quello della M e dell'FM, capito? E poi l'ultimo della regolazione della banda è preciso ai primi tre. Poi magari li recuperiamo col tempo. Posso anche capitare che sono stato un po' con un giro. Vabbè. No, quello lì non te, non tengo, chiaramente c'è questo. Oh, lo sai che ho fatto il cassettone a... Ti dico che è quello della Stato, che sono venuto nel 2009. Sei quello che ho fatto là per questo, ma non ne prenderà mai le sue condizioni. Ma tu hai letto cosa ho scritto io? No, perché io l'ho scritto direttamente da messaggio privato. No, io per la chat e tu invece mi risponde per privato. Infatti, quello è il punto. Cazzo, ma ti pare che io su la base ti faccio modifico una tattica a te? Senta così. Oppure così, una carta prepagata tirata così nell'aria. Io ho detto no, facciamo una cosa, io te lo prendo, pagamento la consegna. Ma così dietro non vende. Perché non vede, non si può, perché tu sei tranquillo, tanto il contrattino non lo vede, ma magari potrebbe più, ma tu non devi ancora pagare il contratto, mica la paghi tu. Perché per chi sta comprando invece di spendere 15 euro di spesa, mettere 6, tanto che non c'è tutto, ma pagare basta. Casa te la prende, te lo metti in una scatola, lo porti nel corriere, mi spesco il contratto a questa persona. E tu? Adesso che ha risposto uno che era in contatto per i commenti, ma perché il dinero non ha niente, solo qua. Ma va bene, va bene, nuovi non li compri più, nel senso che non è che proprio qualcuno che li prende nuovi in mezzo, sono la qualche apparecchio del mezzo. Va bene. Aspetta che lo rispondo, Daniele, prego. Anda bene veda, e allora? Mamma mia, che oggi non c'è il caldo di ieri, lo so, però c'è la verità, ma no, adesso va, questo cazzo non c'è più il caldo, bene il caldo, vero? Cappa! Adesso è a posto. Adesso lo brucio. Non prende, lo metto in fuoco. No, Anto. Questo è lo segamento di spalle, di che non è di merda. Come mi avvicino alla finita, ma fai a cagare. E fare le punti di saldatura. Mi serve assistenza. Nel caso tu è tra farmizio di aspettare. Sto salendo e riuscito. Ho capito, lì ha fatto il corso d'aria. Sto salendo un attimino su, e devo vedere se riuscite a configurare la telecamera. Nel caso dovesse entrare il fabbricio, sto riscendendo tutto, grazie, io me lo sento. Va bene, ok, grazie, coraggio. Anda bene, dai! Fai pure te, già siamo qua noi. Io sto cercando di mandare un messaggio a Gianni Profetta, avevo già combinato oggi. a piazzare l'antenna, beh, vediamo se sei riuscito a fare il lavoro. Un arringo. E intanto già se la cava, dai. La mia invece, quando pioveva, scendevano a zero le stazionarie, quasi al contrario. La mia diciamo, il problema lì solo perché ha quel cacchio di calvo, il calvettino che si stringe con quella, con quel cadino alla spirale, solo per quel mochito lì, però se si modifica, io alla fine l'ho modificata, quella che prima non aveva più la sensazione, che l'avevo praticamente inciso e... Ferrato con uno di quei schizioni che si usano per i cavi elettrici, crepato con la crepatrice, poi mi hanno crepato nel punto giusto e non si muoveva più. Hai trovato la soluzione giusta, dai, per darti più problemi. E va bene, sì. Ma no, io lo stesso ce l'avevo e andava bene, niente da dire. Ma perché la vendono ancora o la recuperata già? No, già la vendono, c'è ancora il commercio, se la fanno pagare. Una settantina di euro mi sembra che costi. Sì, io la che 30 anni qua, stavo 50.000 lire, 55.000 lire. Ciao, ma Fusaro ce l'ha ancora? Fusaro ce l'ha ancora? Ma quale l'ha detto? Non può essere, anche più che sono detto che c'è questa... Che era un bell'antenna, lo stesso guadagno che costa comunque una cinquantina di euro, sotto le 50 euro, quindi dicono che ha delle radiali piccoli corti, perché non si... poco più fatto. La Venom. Sì, bravo, la Venom, esatto. Che poi dovrebbe essere la concorrente dell'Energy. No, l'Energy 5 ottavi, della Energy 5 ottavi, la mezz'onda della Midland. Oh ragazzi, facciamo così, che adesso prendo la macchina e me ne vado. Nel caso, tanto se mi fai la cortesia, tanto dovrebbe entrare Fabrizio, io non attendevo a nessuno, a dare un controllo di radio, proprio sarebbe. E come va a casa, dai. Sì, non da andare perché io non potevo andare via, non andava a prendere la porta. No, tu rimani, mi dici che ho te dico, io sono di vicino. Allora, fammi trovare il totale da scena di 57.000 euro di liquidazione che mi devi dare. Più che 500 euro della lampada di luce. E qui 20 minuti che ci metto adesso per aspettare. Ah, ho capito. Vabbè, va. Così almeno... Dai, andiamo dopo. Dai, vola. Volare no, dai, cazzo. Che lo stato che sono io, poi magari sono tutto qui, in strada. Sì, quella lì. Ciao, poi già sto fatto, ciao Dani, sentiamo. KT, dai, già siamo qua, tranquillo. Posso puntare su di voi, sono in una botte di ferro. D'accordo, dai, ciao, dopo, ciao. Ciao, ti, dopo la visita, non tu, se no, vieni nel campo, ma fai un po' di strano, ma vero, fa qualche rientro strano. Vabbè, questo qui è l'alimentatore, praticamente, l'alimentatore è più curino che avevo comprato quando avevo forse 12-13 anni, sono qua a passare, e dovevo con l'altra radio, per collegare l'altra radio a casa. L'alimentatore dell'altra era qua, l'avevo preso anche usato, forse io posso chiedere 50 anni. Sono un po' va in pensione. Se lo dici, sì, ce l'ho a 50 anni. Perché la centrale pubblica interna è tutto bene, è tutto. L'importante è che funzioni poi. Già va bene tutto. Si siede. Ah, ma lei c'ha qualche cosa che non è schermata tanto? Cava. Invece il mio l'altro giorno, quello della Ciampere. L'altro giorno, come era attaccato, stava andando a sedersi dopo qualche ora che era acceso. Stavo pompando, erano quasi una novantina. Però man mano che stava andando a scaldare, facevo passaggi e si stava sedendo. Ma tu hai 10 ampere quello? No, sono di quello normale, non è switching. Ma bisogna vedere perché non ti sono attori, tutti hanno capito da 10 ampere. Che il cibo 10 ampere, ma 10 ampere non li daranno mai. Già lo so, e poi è anche troppo quello che stava facendo, perché insomma, c'avevo il 747 attaccato e 8 watt in entrata, quindi pensa a due. Hai visto? Buono. No, come modo mi compro uno da 40 ampere, 30 ampere, così. Ah, tu non hai comprato uno switch, che sono piccolini, c'è una fila, oppure te ne prendi uno di quelli switch da 10 ampere per la farina, oppure te lo tieni solo per la parete. Non ne voglio uno che faccia un po' tutto, capito? Non stare striminzito, perché il 7 ampere l'ho attaccato alla radio e il 10 al 747. Allora non ce la faccio, no? Non è il 10 ampere, perché il 747 non si ritira più di 8 ampere. Ma questo è vecchio, sicuramente pure lui è in età pensionabile, tra un po' quota 100. Scivola nel cassetto. Il cassonetto scivola. Vabbè, allora iniziano a essere grandissimi i compatti di visionari. Io qualcuno che avevo già 30 ampere dell'accesso, però sono revisionato. Per la Moltrono e un paio d'anni fa non sono più. Ci voleva, cioè quando si passava dietro che era grande come un certo panata della Kenwood. Che cacchio! Pesava 3 quintali, ce la fai, oh. C'era un amico mio che aveva un'officina che si chiamava l'alimentatore, pure officina che erano tutti buoni e quelli non si rovinano mai, comunque durano un'eternità. Quando gli istituti si condensatori, quando si esauriscono, durano un'eternità. Non sono come i switching che se ne vanno a fanculo, ogni 3x2, quello dura in eterno, lo puoi riparare sempre e comunque. Però pesava un trono, io non stavo più facendo radio, quindi ho detto anzi. Per non dire che male glielo prendevo dopo 2 mesi gli dava problemi, se no andava bene. Giusto per precauzione. Sì. Anche quelli, ma la sorte, quelli switching hanno preso quota. Lo so, però non sono quelli perché sono sottili, però perché comunque occupano un po' di spazio, pesano un po', però secondo il punto non lo di fare. Io ce l'ho avuto lo switching, il cos'era? Il 30 ampere mi sembra, 25, no 30, e c'avevo il capo attaccato. Io ne ho 2 o 3 di switching, però sì, tengono bene, però se lo tengono molto in fretta, che durano anni, quando si rompono. È vero. No, al mio la prima cosa che era partita dopo un po' era la ventolina automatica che c'aveva, la poteva mettere manuale in automatico, no? Si attaccava e poi sfreddava, come arrivava a temperatura si staccava. E dopo un po' boh, aveva smesso di funzionare quella, infatti andava sempre di continuo questa ventolina. Si solleva la tensione e poi si brucia quanto c'è. Neanche te ne accorgi, è vero. Fanno così, fanno. E vabbè, piano piano. Vediamo già come attrezzarci anche qua. Ehi, abbiate, cioè, voi tutta ve l'ho venduto, eh? Anche io sono portato le roba. Io mi ho ripiazzato, ho attaccato questo che sto usando adesso, che era sempre fermo in macchina, e adesso me lo lascio acceso a casa, e da lì è iniziato tutto. Non l'ho più spento, eh. E poi ho iniziato a procurare antenna, e quello, e quell'altro, boom, sono di nuovo iniziando da capo. Questa qui è un'antenna che ho comprato negli anni 90, anche forse anche col piano qui, No, io l'ho dovuta prendere perché la mia prima antenna che c'era su, piazzata, la boomerang si era rotto lo stilo centrale, quindi i primi 20 che avevano fatto, e poi volevo provare la radio, e quindi sono andato a recuperarmi un'altra antenna. Anch'io prima ho fatto, avevo dei pezzi di marzo, ma che avevo comprato dalla Cavo di Santari, l'ho provata, ma va bene. E piano piano è nata la scimmia, allucinante, vedete me la passata. Giusto a farti due chiacchiere qua la sera, che sto facendo adesso, capito? Passare il tempo, ti passi la serata e anche te ne accorgi. Ciao a tutti, buonasera. C'è la libera, anche perché poi la sera non è la lavoro, io la luce mi faccio una luce a maggio. Così, avanti Gianni, buonasera. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ciao Antonio, ciao Daniele. E allora, questa antenna noi ce l'abbiamo già. No, devo risolvere prima una cosa. Praticamente ieri ho sentito anche Marcolino, lo stilo grande non deve assolutamente venire a contatto con il tubo di base che c'è appunto alla base. Adesso succede che praticamente lo stilo grande, una volta che lo infili nell'isolante in plastica, va a appoggiarsi sul rivetto. Questo assolutamente non va bene, perché lì si crea, chiamiamolo, una sorta di corto, dai. Come stava, come funzionava bene così già? Io ce l'avevo e stava andando. Ti ripeto, Marcolino mi ha sconsigliato di farlo appoggiare praticamente, perché sennò non avrebbe senso quell'isolante in plastica, Cioè, c'è praticamente quella bobina con le due spire dove c'è il polo caldo che è praticamente appoggiato sulla bobina a spire, che poi questa va a finire sulla prima staffa dello stilo. Poi c'è la seconda staffa della bobina che va ad agganciarsi al tubo della base, ok? E quindi praticamente in pratica lo stilo e il tubo di base non si dovrebbero toccare. In questo momento, come infili il tubo, il rivetto fa come una sorta di fine corsa, si poggia sul rivetto, capito? Già lo so. Però io ho provato i rosmetri e tutto, mi davano sempre 1 e 1 di stazionarie, 1 e 2. Ho capito. Antonio, cosa ne pensi? Sì, certo. No, io non ho capito neanche di cantare la settimana, la verità. Della Ringo, Antu. Ah, della Ringo? No, ma la Ringo, la piace, va bene. Sai qual è il problema? Adesso te lo spiego in 2 secondi. Hai visto dove c'è quell'anello di gomma nero? Nella base, diciamo. Poi c'è in Italia lo stilo, no? Che c'ha la bobina. Lì c'ha una sorta di L staffettata. E agganci questa bobina. E se ne va ad appoggiarsi in pratica sopra quell'anello nero. Capito? Ho capito, ma vabbè, tra virgolette non è quello il problema. Il problema è che è bene praticamente non far toccare lo stilo grande col tubo della base. Questo è il discorso, capito? Perché tra il tubo di base e lo stilo grande ci sono 5-6 cm di isolante in plastica. Ma quella è la Io leggendo il forum, chiedendo anche a Marco che l'ha avuta prima di me, mi stava consigliando di non far toccare praticamente lo stilo al rivetto. Io ripeto, ce l'ho avuta tantissimi anni fa, non so se adesso l'ha modificato, però io avrei ancora lo schema proprio fisico dell'antenna, ma non c'era mai nessuna registrazione di quella che questo problema che stai inventando. Devo riuscire a trovare la maniera per praticamente fermare lo stilo grande e non farlo toccare al rivetto. Questo in sostanza è quello che devo riuscire a fare. Se no già, fai una cosa, tu la piazzi, intanto hai attaccato il portatile con il rosmetro. Tu la provi tutte e due le versioni, con il rivetto appoggiato all'isolatore e poi la sollevi appena dall'isolatore. E vediamo un po' cosa succede. Sì, devo fare qualche esperimento prima di piazzarla, capito? Cioè, mi voglio levare questo dubbio, capito? Almeno così te ne rendi conto, perché l'ho provata così com'è, c'aveva 1 e 2 di stazionarie. Capito? Se avrei già bruciato la radio a quest'ora, quando ci avuto le stazionarie a palla. Sì, quello è chiaro, Daniele. Mi è venuto un dubbio ieri mentre la stavo pulendo, ho detto questa cosa deve toccare o no? Infatti poi ho mandato un messaggio a Marco, stavo chiedendo qualche delucidazione in più, a parte l'informazione del forum. E quindi praticamente Marco mi ha consigliato di non fare appoggiare lo stilo lungo, di non farlo toccare al rivetto. Poi sì, tra virgolette il problema di quell'antenna dovrebbe essere l'isolante che le stazionarie possono aumentare se ci sono infiltrazioni di umidità o d'acqua all'interno di quell'isolatore lì, capito? In mezzo ai due tubi. A me scendevano, se erano 1 e 1, 1 e 2, scendevano a 0 le stazionarie quando pioveva. Questo è quanto. Vai, riprendi Antu. Sì. Però state esagerando, secondo me non arrivo, avete tutti questi problemi. Ma infatti Antu, lui va alla piazza, tanto ci vogliono 10 minuti a piazzarla. E poi fai le prove, tanto te ne accorgi subito. Perché ho fatto le prove, come avevo piazzato quella bobina lì. Eppure tarava, perché le stazionarie aumentavano secondo come girava quel cavetto lì, capito? O aumentavano o diminuivano. Sì, in teoria non ci deve andare male lo stilo grande nel rispetto. Può appoggi quasi su, quasi prima, e lo stringi con la fascetta, non c'è nessun motivo di buttarcelo fuori il vecchio. No, Antonio, il bello è che come quando lo infili nel tubo di base, praticamente infili lo stiro grande, praticamente il rifletto scende e in maniera molto naturale tunk, va a appoggiarsi sopra, capito? Lo so, ma in quel rifletto c'è attaccata praticamente la spiralina della carica. Sì, c'è la staffetta L che regge la bobina, due giri di bobina. Lo so, quindi nel caso di questo fare 2 centimetri prima, 2 millimetri prima. Infatti dovevo trovare qualche soluzione senza fare troppo casino per riuscire praticamente a bloccare lo stiro prima che toccasse. La fascetta lì è che la stringe, perché lo stiro la fascetta. Certo, una delle opzioni era quella, capito? Quella di metterci una fascetta. Certo. Sì, poi vabbè. Chiaramente poi si deve trovare la sistemazione ideale del polo caldo sulla bobina. Sì. Praticamente leggendo sul forum Roger K, quelli più, insomma, più informati, più preparati consigliavano di tirare lo stilo sino alla lunghezza di 4,30 metri. Io ho tirato tutto lo stilo ieri lasciando 5-6 centimetri di ogni radiale all'interno degli altri radiali, e quindi fai 5 per 3 15, fai che ne ho lasciato qualcosina in più, e ha misurato 4,80 metri. Vabbè, ma è stato quella cosa della spirale, quindi in teoria potresti anche tagliare in 1,5 metri. No, non taglio nulla, al limite è telescopica, quindi capito, dovrò fare questi esperimenti. Anche Marcolino mi ha consigliato di non scendere al di sotto dei 4 per farla risuonare bene, perché lui prima di mettersi la Energy aveva trovato praticamente la cordatura ideale, e anche lui l'aveva praticamente estesa dai 4,10 da 4,10 a 4,20 metri. Questione dei punti di vista, perché 3 centimetri sono la differenza. A lei. Buonasera. Ciao Tino. Ciao a tutti. Beh, è entrato Fabrizio? No, niente, mi sa che sto bambino ancora in fase di... Mi assento un secondo. Non è entrato, però c'è il problema di bruciato, non so se può venire dalla casa sua. Sono io che sto facendo fuoco, sta innescando. No, però so, dammi credo a me, però non c'è ancora il palo. Senti tu, sta innescando. Io sono pignolo. Lo so. Bene, e allora già. Vabbè, però stavo salutando a Gianni, allora già. Eia, sì, stavamo parlando di questo mistero del rifletto che insomma non si sa bene, cioè adesso lo so, sarà opportuno che la testa in rinfetto dentro il tubo di base deve toccare lo stilo grande della Ringo. Ah, ho capito. Lui è più tecnico di me, io sinceramente non so cosa dirti. Lui conosce il latino, Tiro Enrico, è stato sempre Enrico, ma noi andavamo con la Gran Tour e lui andava con la Marco, ma che il potenziale era Ringo. Lui è la giocata Ringo. Ringo mangiavo i biscotti io. Ringo c'erano i biscotti, vero? 2230 e già lui era 340, era anche. Vabbè, ero sempre un passo avanti, eh. Sì, dai colpi però. Ragazzi, io scappo un attimo, vado a tabacchina a comprarmi il tabacco. Dai, a dopo. Il gol da 4.008. Non capisco cosa dire per piano. Io vado a comprarmi il tabacco, a dopo. Non fumare. Non fumare. Come non va più di moda, lascia perdere. Ormai vanno di moda gli uomini con la pancia. Sì, specialmente stanno superando i 40. Tu, insomma, te ne hai dato l'amore. E anche la verità. Mi la sento un attimo, eh. Porca miseria, cazzo. E io mi sono messo a ritiro una settimana perché mi sono trovato la giacca e mi tirato un po' sull'addominale. Vabbè, fai come tutti, la tagli in mezzo. E gli fai giro il pezzo di scocca, molto ci vuole. Aspetta, non devo aspettare, l'abito aspettato. Ah no, la metto alla moda, adesso c'è tutta la notte che anche per tutti. Ormai lui lascia fare, né camicia. La camicia sì, vabbè, la camicia sì, però l'abito io forse il giorno del mio matrimonio è matto. Io avevo una giacca, però ho fatto. Aia, ho sentito il rumore. Ma tu? Anto. Ah, ho sentito un sicuramente l'alimentatore che stava così. Io l'alimentatore non ho più acqua, ogni tanto quello che esce in fumo. Ma un attimino che provo a chiuderci un po' le fine a vedere fino a dove posso arrivare. Tu, ho detto, prova a parlare che ti chiudo le fighe. Non mi capisci. Sì, come fare, non si senta però devo mangiare di curva perché se la fanno con gli altri li hanno di sento. Uno, due, tre, quattro. Attenzione canale 10. Lo abbasso. Sempre basso? Esatto, è che gli altri dicono più basso di taglio, quindi io c'ho uno più alto. Quindi cosa succede? Che dopo parola che se io abbasso il volume per tempo e parola che mi sente. Ecco. Però tu devi parlare con me. Ecco. Eccolo, avanti. Allora, vediamo un attimino come sta uscendo adesso. Prova a aumentare di microfono, Fabrizio. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, Mickey Gain. Ma un bel rumore, non so se hai il ventole acceso, perché ti fa... E la tua modulazione è mischiata, ma prevale la ventola. No, qui abbiamo di vetro, abbasso un po' l'amplificazione del microfono, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, è migliorato in confronto a prima? Ti sto ascoltando da casa, non sono più là, la modulazione è cambiata. Ho messo quell'M80, ho costruito, però c'è anche qualche cosa, adesso doveva sparare, infatti da un sacco di... da picchi. Posso provare a fare ancora un'altra modifica, però non riesco a capire, c'è da esserci qualche cos'altro anche qua. aspetta che tolgo un'altra cosa, un attimo, Sì, siamo qua. Sai cos'è? Che adesso hai i picchi positivi, mentre prima picchi positivi non ne aveva, proprio niente, rimaneva largo, stabile, e quando fischiavi, ma dovevi entrare dentro il microfono proprio per cercare di far salire il picco di modulazione, capito? Adesso invece me ne accorgo, quando tu stai parlando, Fabri, da dei picchi positivi. Non so quanti watt stai dando, però sta spingendo ora, No, questa è una modifica, posso anche abbassare, ecco qua, dovrei avere anche, questa è una modifica praticamente che serve per aumentare i picchi e aumentare la modulazione. Adesso provo a eliminare un transistor che dovrebbe aprire ancora di più. Però deve esserci qua, poi se no si dà contro di tutta la stanza, dovrebbe dare molto di più però, Aspetta un attimino, ti chiamo fra un po'. Ok, aspetta un attimino prima di chiudere, Fabi. Che mi chiudo un attimino le fighe. A portante bianca, un attimino, schiaccia. Che bello. Ah, vieni. Ok, ora prova a dire. Ora, vediamo un attimino. Ti ho messo a 6, Ti ho messo a 6. Giusto per vedere quanto sale il picco di modulazione. Ora. Allora fai da 6 a 8 in picchi di modulazione positivi, Sì, questa è la modifica dell'M80. Adesso voglio fare un'altra prova, lasciami fare una cosa, però se no qui c'è la catena. Aspetta. Siamo qua. Anto, come lo senti tu? Fai una prevalenza di radio tra me e lui, lascia perdere la distanza. Io ho il più 4, lui dovrebbe utilizzare, credo, quello del P5. La radio è buona, chiaramente che sono anche applicato, in particolare. Ho capito, però dovrebbe essere un similare, perché anche Fabrizio ha una bella modulazione, come quando parla al microfono e lui ha la radio spinge. Sì, vabbè, ci sentiamo dopo allora, dai, che provo a fare un'altra modifica, è quello che si può fare per aumentare la modulazione, poi magari faccio un altro paio di controlli, aspetta. Vabbè, ascolta, facciamo una cosa, perché tanto Antonio deve andare via, io mi trattengo un altro pochino, poi però sono a casa e quindi non c'è problema. Nel caso che tu ti devi trattenere, Fabri, a fare altre cose tue anche, non c'è problema, mi chiami, mi fanno spillo e riprendo. Sì, no, stacco un attimo, devo individuare un transistor e fare una modifica. Ci sentiamo fra un attimo, da fra un po', là. Ho capito, sono qua comunque, sono qua. Va bene. Io volevo sentirlo con l'altro, adesso lo sto ascoltando con la fagliette, ma ormai ho l'orecchio a questo, ho messo il refigin a questo, così vediamo un attimino, giusto per vedere se va di più o meno. Caprano, lo volevo ascoltare con il 440, vabbè, già lo abbiamo stesso, già sembra che stia andando ora, perché prima non andava proprio di modulazione di picchi, non andava, sicuramente l'hanno zappato dentro, che la metà bassa, anzi già tanto che sta andando con la radio, per come mi hanno raccontato, quindi va bene uguale. No, perché sai, io vabbè, non mi metto nelle parti vostre, però cerco di medesimarmi, no? Nel senso che magari uno sa i trivilini della, adesso, della modulazione, ok? E dai, te lo faccio io, e va bene, poi magari si incasina quello, lo dà un'altra, lo dà un'altra ancora, quello dà un'altra ancora, ancora, e così via, si forma una catena che dal principio magari era una cazzata, è diventata una montagna di problemi, perché ognuno ha fatto di sé e ha fatto l'anno, capito? Quindi poi giustamente chi lo prende, io credo che deve smantellare tutto ciò che hanno fatto gli altri e partire da zero, quindi capisco anche che ci sono delle ore di lavorazione, capisco che, ecco perché magari molta gente preferisce non aggiustarne, dice no, fai prima a comprare l'uovo per le cose che ci sono da fare, che insomma ci butti ore sopra, mi è stato già spiegato questo, questa cosa qua, questa situazione qua, però vabbè, io ho detto, è una cosa che mi trovo regalando, se ne vale la pena, la facciamo aggiustare, insomma. Cosa vuoi dire, tanto è così, è un apparecchio che stavo sempre cercando, però se funziona sono molto contento, perché è una cosa che mi piace, capito? Sì, io so che ho lavorato, io ho lavorato là, Ciao Tino, aiutami, non mi ricordo il nome. Di, non mi lamento più. Ciao Tino, comunque passano tutti a. Guarda, io non arrivo sempre a secco, quindi. Quando, prima di arrivare a secco cosa c'hai tu? La B? Ri? Riserva. Ciao, per ascoltare. Beh, Massimiliano, così è. Scappa già. Vabbè, lo. Sai, lo vedo spesso nella mia macchina, Un tempo si usava a dire, cazzo, anche tu sei come lui. vabbè. Ho fatto quel lavoretto là, quello scotch nel protezione, che è stato per incattuare al meglio quelle manopoline, vanno di lusso, è di lusso. Almeno è completa, là. No, perché se li metti la colla non va bene, capito? Poi magari devi toglierlo per pulire qualcosa, per togliere la mascherina ti crea sempre casino, magari togliendolo si spacca anche, è fatto bene, là. Ho sentito un bip, chi è che vuole entrare? Chi è? Oh, ciao Daniel, buonasera. Buonasera. Mia, rompi un room, avanti Gianni. Così di che cuzzo. Buonasera a todos. E allora, come va? Niente male. Ciao Gianni, dottor Ru. Ciao Tino, ciao tutti gli amici da. Ho fatto un po' di ascolto, prima ho sentito che è stato Massimiliano, da poco. C'è anche lo riserva, tutti su due. E anche Daniele, dai. Daniele, ripeti, te la fai. Stavo facendo un ritiro. Andava, no, io mi sono sentato un attimino e stavo facendo la mia aerosol, va bene, ok, dai, riprendi Massimiliano. Sì, anche io, appena sdocciato, anche io mi sto facendo la mia aerosol, quella con la bottiglia verde, da 66. E io idem. Quella è del faticante, quella ci vuole, se uno ha faticato tanto. E oggi abbiamo guidato, capito? Oggi no, non avevamo altre leve in mano, là. Vabbè, no, e abbiamo trovato l'offerta, questa Bavaria, quindi l'ho presa subito. Mia moglie quando mi dice, prendi una gassa, una caia, due, tre bottiglie, prendi una gassa. Anch'io dovevo uscire per fare il ricorrimento, invece sono dovuto venire di corsa qua, ma ce l'ho male, sento toccare. Perché devo fare un controllo, quindi sono dovuto venire in stazione. Va bene. Quindi, già dal dottore c'era quella roba lì, ok, no. Andrà bene, avanti, riserva. Ciao Gianni, comunque. Bene, ciao Gianni, per ascoltarti. Ciao anche a te, Antonio Massimiliano, dai. Allora, cosa hai fatto? A casa sì, adesso. Perché? pensavo per la base, però ho fatto per poco. Non pensavo che fosse anche per te, sono a te. No, no, non so adesso sempre quella cosa, forse, ma non vorrei che si distanza con la stessa, io non ho qualche volta, non so, non c'è una distanza. Vedi se non c'è la velocità di uscire, dai. Cominciamo a trovare la Brecco. Vado al Brecco. Ciao Gianni, Fabrizio, come va? Uè, ciao Fabrizio, se sei sentito la verità che a te. Ma diciamo che non va tanto bene perché sono sempre con questo dolore alla gamba, non riesco a fare nero. Aspetta, sono piccato su con la tampella. Sto camminando con la tampella, non sto vogliendo, perché non riesco a camminare. E racconto sei. Oiaia, ascolta, Tino c'è. Ehi, sempre qua, Fabrizio. Vai, prova. Allora Tino, guarda adesso, questa è un'altra modifica, dovresti vedere molti più picchi e probabilmente la modulazione più forte. Sono col Mickey Gain del ZCM più 5 a metà adesso. Aumenta te. Allora, i picchi di pulsare fai da 6 a 7. Prima facevi da 6 a 8. Vabbè, adesso se aumento questo qua. Dimmi, lascia perdere il ventole su tutti gli strumenti da laboratorio accesi. Come va? Come ti sembra aver migliorato? Dimmi cosa senti, io non riesco più a capirci niente, se no. Allora, con la modulazione aumentata, però si porta a me dietro tutta l'ambaradana, quindi la radio la sporca troppo. Posso? Ehi, vai, ma quindi hai. Per me, se non abbassa la modulazione, è orrenda, così. A chi non si comprende nulla. Sì, ma infatti raccoglie troppo il ventole e tutto quanto. Guarda, guarda, adesso ho abbassato un attimino, ho spento un po' di strumenti, quindi un po' di ventole dovrebbero essere andate via, non proprio tutti, perché se no spendo anche il frequentimetro, un pochettino, ecco qua. È così, appena appena fai da 6 a 7, prima avevi più picchi e fatto bene. No, ma io vedo gli strumenti, da 3... No, vabbè, quello non guarda i picchettini, perché là c'è quelli. Se abbasso poi... Adesso passo da 1 watt a 7-8 watt. Per me è 1 watt la radio molto più bella. Comunque, allora... Questa, l'idea è lasciarla così con un po' di picchi positivi. Allora, io la radio praticamente non stavo uscendo questa qua. Guarda adesso come ti sembra. Io potrei anche abbassare il Mickey Gain, sto abbassando, e magari sollevare questo qua. Mi devi dire tu come regolarlo, se devo andare avanti a fare altri controlli. Guarda, se ti sto ascoltando io, adesso differentemente dall'altra radio, questa è più seria, dai. Allora, praticamente... ho montato quello che gli americani chiamano doppio modulatore, che non è un vero doppio modulatore, è un... sto allargando praticamente il filtro della radio, è quello per dare un po' di picchi positivi alla radio. Ho abbassato il Mickey Gain della radio, come lo vedi ora? Ascolta, così facciamo il passaggio un po' differenti. Spostati un attimo, va, così non interrompiamo anche il corso al nuovo. Vai sul vento, vai. E vabbè, da una radio normale non è che si possa pretendere chissà che cosa. Non lo so cosa devi affacciare. Ma te cosa metto di spostarmi? Ehi, sul 20, Fabri. Fabri, va sul 20, va. Così almeno non interrompiamo il corso. Dai, non perdete. Io vado un attimino via da Caffa, da di luce dove? A fare i pesi è andato. Cla, buonasera. Vabbè, soci. No, non so se si sono spostati tutti sul 20, boh, io sono rimasto qua. Sul 20, oggi fa sul 20, mette che avere prove. Va a parlare qua, massa a tutti. A tu pare se ne sono andati tutti sul 20, comunque, va bene lo stesso. No, io ci sono, eh. Ehi, Daniele. Va bene, comunque da una radio normale non è che si possa pretendere chissà che cosa, eh. Forse una radio nata male quella, capito? Però la modulazione secondo me è bassa. Ciao Daniele, di che radio stai parlando? È una radio di Tino, che sta provando. Ma da una Zincuzento vuoi far diventare una Mercedes? Eh boh, cosa vuoi ti dica? Aspetta, mi sto bevendo una birretta. Sì, via Lattie. Allora, Dani, aspetta un secondo, eh. Ehi, Acra, tanto sto prendendo colpi. Sì, attivo i colpi. È più avanti di me, Fabrizio, attaccato a te. Cioè, sembra con lo squelcio inserito. Ma non c'è da fare. Sei in mezzo, tu, per forza li prendi i colpi. Va bene, dai, ok. Cara, non è quello il problema. Anche se sei in mezzo, il problema è cosa sta usando lui, è quello il suo problema. Vabbè, rimani un attimo con Daniele o Massimilia che sto facendo una cosa, un attimino, arrivo subito, ok? Ehi, io già sono qua, non ti preoccupare. Io Daniele, organizza di una radio con i cristiani. Cosa Massimilia? Cazzo, non capisco più un affanculo qua, E vattene anche tu sul 20 allora, dai, non c'è problema. No, tranquillo, già me ne sto qua, non c'è problema, ho capito, solo organizzati. Una radio migliore da stare lì. Pensando. Adesso vediamo cosa riesco a procurare, boh. Nani, cosa riesco a procurare? Se sei avanti di quelle che avevi prima, prenditi quella. A trovarla, Massimiliano, a trovarla, Ce n'è, a voglia che ce n'è. Gappa, sono rimasto da solo, tutti i sinistri sono fuggiti nel 20 a fare queste prove. Sono rimasto io e Daniele, andavo. Capito, Daniele? Ti ripeto, se sei amante di quelli lì, riprendi quella. Quello sì, Massimiliano. Ma noi veramente piacciono tutte le radio, io non è che ne ho una fissa in particolare. A me piacciono tutte, se ne avessi avuto soldi guai, avrei preso dalla prima all'ultima. Ma tu secondo me ti devi prendere una radio o baracchino che non prende colpi per farti una chiacchierata e ti prendi un bel ricevitore. Capito? Bello, grande da stazione, no di chi si porta tilini o veicolari, no, da stazione. Un bel ricevitore già arrivato. Infatti, è un po' così che volevo fare, capito? Un po' è così, perché anche quello che hai fatto vedere tu, anche quello è appetibile, anche quello mi piace. Il problema è, basta che non prendano colpi. Guarda, questa non le prende colpi, Daniele. E questo te lo posso garantire, ma no, al mille. Tu già lo sai chi c'ho vicino io, no? E quando attacca, già lo sai, no? E a me non mi disturba. Se lui è nel 20, io sono nel 10, ma siamo a 300 metri di distanza uno dall'altro. Capito? E a me non mi disturba. Kappa. Già lo so. Non si vede, è buono. Perché qua, vedi, sono spostati di 10 canali più avanti e mi sono fracassendi, dal primo all'ultimo che c'è su quel canale. Io non so se sta bene. La mazza. Già, tu sei lontano però, eh. No, se mi sbaglio, se mi sbaglio, 40 sono sempre, lì è un per quello, Io infatti, Daniele, che cosa gli ho detto? Secondo me si prende un bel baracchinetto bello serio per farsi una chiacchierata e poi quando vuole ascoltare un ricevitore. Ma mi sa che a caso gliela metto una lampada, non vuole sbagliare, non è perché se l'avevo messa a fare. Quella sì, già quella non tocca, che vediamo come evolversi la situazione. No, io con le ragioni come stai? Sono scemo, già, te l'appoggio. Io te la spingo. Io ve la lecco. E lo vedi? Sempre qua. Posso leccare io? Visto che voi spingete, appoggiate. E non fare il pornostar. Come il pornostar? Ma cosa vedi tu sei malizioso? Cosa ne sai io già devo leccare? Adesso è il periodo dei gelati, sono buoni. Ma infatti il malizioso lo si prende in due, compreso Mari. A chi vuoi ringhi il rondellino? Savetta, vi sono tanti gorgi a Ringhi. Ah già, io vai, che sto benio da me. Mi cornicione e visione a Nittà, un bel. Sai, sì, c'è poi sta la terra, tutto, capito? Le foglie, e tu, vabbè, da Bolizia cornicione si appoggio. Adesso voglio sapere una cosa, Clau. Che adesso attacco la luce dello strumento, non fischia più né nulla. E vuol dire passatelo Marchini, ciao doppio. Io mi ero un po' incattarici, la verità, perché ho detto stamattina Massimiliano ha portato via la piattaforma piccolina e quindi stasera non ha fatto niente. No, dopo pranzo ti dico che la giocuto la giuscia che c'è di vano, madre di Dio. Capito, è fatto troppo bene. Era una settimana, mi affippa bagetti. Ero la ghetta, salivo, mangiavo, scendevo, salivo, mangiavo, scendevo. Allora, ho detto che fa due cosettine domani, e venerdì, e poi basta. Fatta gente, ma non puoi venire manco due domani. Tu ci fermo Bonti e fermo Venere, già fate domenica. Va bene, allora tutto a posto, sì, state bene. Tutto ok. Oh, allora è vero che non stava, non era in netta forma? No, così ha detto ieri, non manco di ricordo. Vediamo come. Lui ha subito un intervento, aveva detto, quindi sicuramente lo ricovera per fare dei controlli più approfonditi, degli accertamenti. Vabbè, Giulio non è un ragazzino, quindi è giusto che faccia tutte le cose che deve fare. Va bene, va bene. E tu, capo Ebonier, caricato hai chi c'è d'un per? Più di uno. Più di uno, ho fatto 54 viaggi, già ne sono bastati per oggi, no? Datemi due secondi che vado in quello piccolino, QTH. Ah, vai, vai. Qua sono, cercando che mi facciano parlare, perché è impossibile. Quando parli tu già, mi sento a Massimiliano chiaro chiaro, sembra che sia qua. Ma c'è Fabrizio. Lo vedo, è vicino lui, sono io, poi in mezzo a Fabrizio e poi dopo c'è lui, quindi... È chiaro che lo sente. Sì, l'apparato è che sono dei colpi. Io voglio dire, basta chiamata per appena le spedire. E vabbè, baracchini sono baracchini. Baracchini sono baracchini, colpi li prendo io perché non li uso. Vedi, in queste circostanze io dovrei stare zitto perché a me Fabrizio mi scende deja con il baracchino, come Antonello, come Roberto, ma sento anche a te, figurati, se sento la Gia Maria quando parla nel 23, se dovessi attaccare il baracchino, non l'Airbag, se l'Airbag non sento a nessuno, ma se attacco l'Alan 48, ui ui ui, per carità di Dio. Ma anche le galassie, le galassie sono aperte, è difficile, proprio dove siete vicino, vicino, allora abbassa appena appena le feghe. No, io lascio le feghe tutto aperto, tutto tranquillo. Ragazzi, sì, Filippo è arrivato, stava lavando le zampette perché si è morsicato, si è staccato l'unghia e quindi le stava facendo con l'oculina, come si chiama, l'ho fatta anch'io per l'unghia del dito, stava facendo gli impacchi, solo che si ringhi, ma ragioni, e ma vedrai tu quando inizi a sentire il sapore della varecchina non le tocca più. Riprendi Daniele un secondo. Così è già, cavolo, questo prende i colpi a destra, a sinistra, a centro, sotto, sopra. Per quello mi voglio attrezzare. Ma anche io ho 48 macchine, anch'io sì, facevo così, una a casa, una in macchina. Però c'avevo pure l'altro, capito? E da quel lì che io l'avevo preso per quel motivo, per non prendere proprio colpi. Capito? E almeno così ero tranquillo e se c'era altra gente in altri canali e non ero disturbato. Oppure se mi disturbavano, che era impossibile, abbassavo appena e risolvevo il problema. Oh, devo andare, mi sono dimenticato che dovevo comprare un nuovo. Adesso andiamo, devo andare a prendere. E poi esco, mi saluto, devo andare a comprare il pieno per le cambi, la cellulare. Cava già, vai tranquillo, dai. Buon proseguimento e buon fine serata. Se ci siamo, vuoi entrare, ci fa piacere, dai. Che ce l'ha posto, lo metto un fratello perché sono nato. E cosa già? Capo per un viaggio. Ah, già chiedo. Ma quanto? Metto la mano di Ciro. Questa stracciata la metto non prendo. Da 15? Buono, ma la coppia no, una. Allora ti ho regalato 30 euro. Se ne è stato un prezzo favorevole. E quindi c'è l'una l'ho dato. Ma io me ne sono la P5 e c'ho la P5 adesso, se no non c'è spazio. Va bene, va bene. Ti faccio sapere. Ok? Cavaleata. Ne ho di questa cocciolata della volta scorsa che di un mese fa. Quindi ce li ho anche di un mese fa. E già perché sono di settembre, sono tutti giovani. Beh, già lo so, già mi hai mandato le foto, ho visto tutto. Belle sono. Belle. Beh, andavo al negozio. Qui ha fatto il furbo, me l'ha fatta mettere la gamba e mi ha detto sì, però questa volta te le pagano prima, ho detto tutto qua, non te le lascio, ciao. Ehi, già. Sono molto belle, poi quando sono grandi. Tanto sembrano covidi, quella che c'è tu è enorme, minchia. Un giorno vieni a casa, te le faccio vedere come sono affezionate, mi saltano addosso, si fanno accarezzare, sono tutte addomesticate, quindi non sono selvaggio. Cazzo, bellarello, mamma mia, come sto. Uiuiui, belle, mi piacciono, le cavie mi piacciono, eh? Sono sempre piaciute. Cazzo, mi piacciono i conigli, a tenere a casa, un coniglio. Ogni volta fanno vedere quel programma, la domenica, mi pare, degli animali. È una cosa allucinante, sono troppo belli, cazzo. Lo devo guardare anche io, quello su canale 5. Lo guardo anch'io dei cani, fanno vedere i cavalli, tutti. Bravo, l'arca di Noè, c'è il coso dei cani, come si fa con i cani, ma soprattutto fanno vedere anche tutti gli animali che appunto possono diventare domestici, capito, come il coniglio eccetera, come tenerli. Molto bello quel programma, veramente molto bello. Oh, quello è un esperto, è un come si chiama già? È un cinofilo, sì. È un ispettore cinofilo, ma c'ha una cultura con i cani allucinanti. Oggi hanno detto che i cani di moda adesso i più venduti sono i bulldog francesi. Ho ripreso, ragazzi. Ehi, Massimi, sì, l'avevo letto anch'io già. Perché sono piccoli e più domabili dell'inglese, capito? Bulldog inglese è va bene lo stesso a casa, però è meno domabile, più devi stare molto più attento. Tanto già il mio ha già provato 30.000 crocchette, sempre la dermatite le fa venire. Adesso ce l'ha le zampe sopra la piaga delle zampe di davanti, sotto il muso, capito? Si gratta, non è che non si vede niente, però si gratta, perciò un po' di dermatite ce l'ha. È troppo delicato, troppo. Mamma mia, Gareth. Vabbè, pazienza. Sai quelle al pesce bravi come lui? Io le crocchette mi non sono al pesce, le mono fruttifiche, quelle al pesce, e io mi sto dando un braccio, sempre quello. Il trainer non le digeriva, già si faceva entrare la macchina. Non le digeriva, è cazzo di un anno che sto prendendo queste crocchette, non sono al pesce. Non sono al pesce. No, ci le balle bene, boh, non so più cosa le a mangiare, non lo posso campare a carri tutti i sette giorni già. È troppo costoso, troppo, capito? E quindi boh, adesso vediamo. Mi ha fatto il Gentle, gli ho messo, e poi sto facendo degli impacchi con la clorina, che praticamente disinfetta. Vediamo se le passa, se non si gratta più, perché si gratta si lecca, è lì che se ne è attaccato lo sperone, non che lo sperone se l'ha attaccata di netto, le manca completamente, capito? Invece dal prurito, morsicando, leccando, se ne è attaccata, e vabbè. Ok, dai, avanti Massimiliano. Dai, vi saluto, che sto andando, ciao. Ciao già, ti faccio sapere, vai Massimiliano. Ciao già. No, volevo un info da Gianni, un secondo. Se lui c'ha l'S980. Sì, l'S980. Ma 80 cosa significa? 80 watt in banda? Non lo so, il modello è così. S980. Sì, più o meno dovrebbe essere questo. Ti dà 80 watt in banda? Sì, ti dà. Per lo meno, posso provare. Se provare, non lo so. Va bene, dai, era giusto lì una mia curiosità, no? Ti è rimasto qua, Clark, ero in bagno e non l'ho fatto ascolto. Daniele c'è, sì, è quello, è il modello da 100 watt, che poi siano 80, siano 90, ma già li dai in modo laterale o Massimiliano, c'è quello lì. Quanto? 90, quasi, secondo me non arrivi a 80 lì in banda. Così è, io so così, poi non lo so, è per quello che gli ho fatto questa domanda. Sì, quello è, io avevo, chi è che l'aveva provato una volta? Non me lo ricordo, comunque dava, sì, una tantina di watt in banda laterale, però dà qualcosa in più rispetto all'S9 normale in AM e FM. Ah, e quanto l'hai in AM? Ah, qua c'è una cinquantina di watt, là. Ma sei sicuro di quello che stai dicendo? Che cazzo non l'ho avuto io l'S9? Io l'ho avuto l'S9. E il mio S9 dava una quarantina di watt in AM. Una quarantina di watt? Non ci credo. Massimiliano, quello che mi aveva dato Gigi Vulcano a me e me, che avevamo fatto cambio col 140, me lo ricordo perfettamente, ma non so se l'aveva tirato, però una quarantina di watt con lo strumento li dava, non ci arrivava preciso, infatti ti dico una quarantina, però li dava. No, stavo facendo una prova io, stavo solo provando. Ma te ne da 30? Questo arriva intorno, allora, questo ne da intorno una quarantina, con un watt importante. Però, già lo sai, no? Questo è quello che ho mandato in Sicilia. Quindi normale, non ci credo che arriva a 40 watt. Massimiliano, io mi ricordo che pompava e mi ricordo perfettamente che non arrivava a 40 esatti, però camellava forte. Mentre il 980, quello lì dà, quello li passa anche 40 watt in AM. Me lo ricordo, sai perché me lo ricordo? Perché ho visto un video su YouTube, senza prima di essere modificato e dopo essere modificato. L'ho visto, quindi prima di essere modificato il 980, l'S980, quello lì, dava 40-45 watt normale e poi da lì a 80 watt quando era modificato. E vabbè, adesso ci do la risposta a Gianni, no? Quando lo prova. Ma tu stai parlando di quell'S9 che ti aveva dato Gigi, che alla fine poi l'hai riavuto dopo qualche anno, giusto? Quello che ti ha dato Costa? Eia, quello sì. No, modificato così, allora ti stai confondendo, Cla, perché io quello lì ce l'ho avuto qua a casa, ce l'ho avuto per un paio di mesi, modificato. Capito, forse ti stai confondendo con qualche altra radio. Io oggi avevo fatto un cambio, l'ho fatto l'S9, ho lavorato un 140, insomma vabbè, avevamo fatto delle cose. Poi gliel'ho restituito perché lui il 140 non le piaceva, capito? Avevamo ripreso, era meglio volta la roba mia, te. Certo, però mi ricordo che compava un bel Massimiliano, poi altro non mi ricordo se l'ha modificato, se l'ha toccato, che poi praticamente quella radio lui l'ha data al nipote, quello che c'ha i camion. Aspetta Daniel, ti faccio entrare. Ehi, vai Daniel. Ehi, no, parlate tranquilli, dai, non c'è problema. Anzi, mi assento 5 minuti, vado a QTH piccolino io adesso. No, aspetta, mettiti il cartettere, oh Daniel. No, basta, avevano anche troppi di quelli. Va bene, ok. Vedi Claudia, adesso c'è la luce accesa. Senti qualche fischio sotto? Assolutamente no, ma non hai fatto nessuna modifica lì? O come ti abbia tradurato i mobili, compensa, boh? Assolutamente nessuna modifica. L'altro giorno mi è salito in testa di riattaccare il filo dell'elettrico, così per vedere la lucettina, perché questo strumento, in poche parole, se tu non gli attacchi la corrente, non ti fa il PET, hai capito? Quindi ce l'avevo sempre sott'occhio, la VG, però claro, l'ho collegato così il volante, ho visto che non faceva nessun fischio, mi sono messo in cuffia. Adesso mi avvicino il microfono, avvicino tutto, non fa di nulla, dov'è? Tranquillo, va. Devo assese assintato. Sì, assintato dove vai, Gianni? Ma se ne vuoi atterrare, c'è sempre da scoprire. Ma il Tino dov'è? Io non ne so qui, c'è andato al 20, non so poi se sta modulando, stanno provando, non so. Ah, provando radio con Fabrizio? Ho capito, vabbè, sono stato lì magari per non disturbare qua. Gappa. Sì. Ma Silvia, io mi ricordo quello. Però sinceramente non ti posso dire altro perché non me ne hai passato un sacco di tempo, non beh però. Praticamente io con certezza guarda, non te lo so dire, però superava i 35 watt quella radio, quello me lo ricordo, perché c'era sempre attaccato la T230, capito? Infatti io inizialmente lo mettevo, quando l'avevo attaccato l'avevo messo in scala a 20, e siccome superava la scala lo mettevo in scala a 200, e arrivava, sul parlato arrivava quasi a 40 watt. Però, ti ripeto, non so se è modificato, se era stato toccato, non mi lamento, non mi ricordo. Lo usavo, figurati tu che ero in coso, ero in via Pascoli, adesso mi sto ricordando, ero in via Pascoli, quindi 8 anni fa. Ok, un'info, ma secondo te, tu già mi capisci al volo, quella cosa grigia che mi è arrivata un 3-4 settimane fa, già lo sai che cos'è, per 450 si può dare? Alla grande. Ma non lo do, lo sai. Vabbè, questa è una scelta, però un buon prezzo. Si può dare, sì. Guarda quanto costa nuovo. 530. Lo so, ma avevo detto, ti ricordo, il padrone del figlioletto di quello, per non fare nomi, sì. 530, da 500 euro in su salgono, da 500 euro in su salgono, quello che costa meno di tutti è quello praticamente che io, dai, quello a 2, già mai capito, quello lì costa 200 euro in meno. Sì, questo costa 530, mi hanno fatto un'offerta stasera ma gli ho detto di no, non me la futti nulla. Ma lo sai perché, già lo sai, perché spinge un pochino più dell'altro. Spinge non è nulla, ma poi Massimiliano, con tutto rispetto, lo sai che noi due parliamo molto bene l'italiano, quindi con tutto rispetto, manca paragone, stai parlando di una cosa molto, ma molto più professionale rispetto all'altra, cioè si va vedendo di roba seria veramente. Gappa, va bene, dai. Ti mando un vocale, poi mi devi dire o sì o no, eh. Vabbè, sono già preparato, te lo dico già da adesso, no. Ma io rispondi sì o no, senza imburichi. Ehi, Daniele, qua siamo. Andave. Io ci ho fatto attaccare la sigaretta nel frattempo. Ok, va bene, sì, ok, ricevuto qua, va bene. Giusto per, capito. E se no diventa la Garitas, ma scomprendi. Ciao Dani, ben rientrato. Cazzo, queste sigarette cosa fai le catture anche tu, come cornicioni? No, io ho la macchinetta qua, prendi tu e ricarico. Io vado da Vasco, i filtrini, le cartine, invece di che le sigarette pare di cannoni, per carità. No, troppa roba appresso, hai troppo da fare. Io ho la macchinetta, la carico, metto il tubo, scarrello, fatta. Vabbè, però anch'io ce l'ho avuta quella lì, Daniele. Però ti devi comprare i tubi vuoti, il tabacco, e la spesa più o meno siamo lì, Soltanto che c'è una differenza, che a me il tabacco mi dura 4 giorni, 30 grammi. Se prendo un pacco di sigarette da 20 mi dura neanche una giornata. Invece se compri... tu ti prendi il tabacco per farti i tubi, così, e ti ricarichi i tubi. Scappa Massimiliano. Sì, a spesa siamo lì, forse spendi anche qualcosina in più, perché già il tabacco che prendo io costa 5,90. 100 tubi costano 1,10 euro. E quindi siamo lì, però mi durano 3 giorni e mezzo, 4, dipende poi da quanto ne fumo, però la media è quella. Se prendo un pacchetto da 20 mi dura neanche una giornata, capito? Ma invece smettere di fumare, cosa ne pensi? Già ci ho provato una volta, tanti anni fa ho provato a smettere, ma ho durato un mese e mezzo, poi ho provato anche quella elettronica e ha fatto poche cose. Daniele, mica io fumavo, quasi 2 pacchi al giorno, l'ho presa per gioco e sono 2 anni e mezzo adesso che non la tocco più, ma non li voglio manco più sapere. Guarda, c'è un risparmio e una salute spaventosa. Tanto siamo uomini grandi, no? Cosa ti la fute ormai, avete la sigaretta? Quando fumi l'odore che ti prende la gente. Io prima non me ne accorgevo, Daniele, perché fumavo anche io, però quando tu ti fumi una sigaretta e poi ti avvicini a una persona che non sta fumando, lo viago buzzinoso è una cosa impressionante. È impressionante. Sì. Avanti, chi è? Ehi, Gianfra, sono qua. Sì, dammi un canale di riferimento, perdonate un minuto, devo provare a digitare. Arrivo subito. Quindi Massimiliano, io quando gioco in paratè, gioco via Goggio, così a chi fumo? No, è così, è claro, non è che sei via Goggio, purtroppo l'odore della sigaretta per uno che non fuma la sente. Io quando fumavo non mi rendevo conto perché giustamente fumavo e l'odore della sigaretta non lo sento. Ma quando tu ti fumi la sigaretta e io che non fumo, quando tu ti avvicini, l'odore della sigaretta purtroppo si sente. Vabbè, ma io uso mentine, capito? E puoi trattare su che vuoi, con viago in bocca, in altra roba e tutto. Vai e prova questa cosa, vai. Quelle gigiolette io c'ho. No. Anche a me no, non le sopporto, molte persone me lo fanno e me la fatica anche a me, io cerco di evitare perché non fumo praticamente in posti chiusi e niente, capito? Quindi non fa. Va bene, Gianfra, dammi un punto di riferimento e così accendo il digitale, dai. 305, ma è già memorizzato? Ah, 35? Sì, mi 305 fa 305. Sì, 305, canale 30, sì, ok. Un secondo che faccio questa prova con Gianfranco, arrivo subito. Ehi, Atra, fai pure, riprendi Massimiliano. Gaffa, io ho smesso già 2 volte, devo essere sincero, però l'ultima volta l'ho presa così per gioco, a smettere. Grazie a Dio sono già di più di 2 anni e mezzo. C'è un risparmio spaventoso, anche se fumi il tabacco, che lo copri di 3-4 giorni, però il risparmio c'è, e di salute pure. Quello sì, è vero, Assegna, quello sì, ma mi sa che mette in testa veramente questa, smettiamo veramente, anche guai, troppo. E poi ti fa quell'effetto, è vero, io quando sto per lavoro tutta la mattina non tocco sigaretta, lo sai come lo sento io poi l'odore del tabacco, di sigaretta, anche in lontananza lì, che non c'è nessuno magari, lo sento da lontano, sembro un cagnolino, sembro. Perché così, capito Daniele, quando stai qualche ora che non fumi così, poi quando ti fai la sigaretta, io a volte mi odoravo così, no, sai, le mani, cazzo, mi avvia con buzzinoso, mamma mia, per carità, no? No, ma poi stavo sempre bisticciando con mia moglie, io dentro casa mia non fumo e non ho mai fumato dentro casa, ma andavo sempre fuori. Quando rientravo iniziava, vai, lavate le mani, che schifo, che odore di sigaretta, boom, mamma mia, va. Lo stesso, con mia moglie qua è un casino. Perché io sì, io fumo qua dentro casa, dentro il caminetto me ne metto. E quindi fumo, cerco di farlo salire su, oppure quando c'è freddo anche fuori. Però l'odore si sente. No, io dentro casa mia niente, sempre fuori, sempre, anche d'inverno, un freddo a cancanarsi, però me ne dovevo andare fuori, io dentro casa mia non ho mai fumato. Massimiliano, aspetta che c'è Fabrizio, mi sta ammazzando. Dai, ci aggiorniamo dopo allora, tanto mi scendo nel piano di giù, mi faccio una commissioncina veloce e riprendo fra 2 minuti, ok? Ah, dai, io sono qua Massimiliano, fammi chiamata, dai, tanto da qua non mi sposto. Gappa. Gava. Eccomi qua, sono rientrato. Pronto. Vabbè, caro. Ui. Io con Gianfranco stavamo facendo una prova in digitale amatoriale. Gianfranco, sei qua? Sì, ci sono. Oltre ogni migliore aspettativa. Una canonata, hai visto? Ci voleva l'aggiornamento, Gianfranco, senza quell'aggiornamento non. La modulazione era truccata. Non andava bene. Adesso invece tutto a posto. Vabbè, Marcolino Condo. Ehi, si sono allontanati un attimino. C'era Daniele Massimiliano. Si è allontanato Daniele, l'ascolto, credo. E sapete se l'Ubrofetta ha provato l'antenna nuova? Eccola. Ciao Daniele. E niente sai dell'Ubrofetta, se ha provato la tua antenna? No, so che non l'ha piazzata, perché c'era sempre quel problema, non sapeva la distanza da quel rivetto dove c'è la staffetta della bobina a quell'anello di isolatore di plastica. Poi c'è uscito poco fa e non è più rientrato, non so se sta armeggiando o lo sta facendo. Infatti ho detto provala in tutte e due le versioni, perché io la stavo usando così, appoggiata a quell'anello di plastica e sta funzionando bene, capito? Naturalmente gli ho detto che la taratura dell'antenna è molto soggettiva, io l'ho tarata con 1 metro di palo, col portaombrelloni sul terrazzo e poi l'ho messa su, cioè l'ho tarata giù, poi ho detto come va, la metto su, come risuona. Dai signori, sto pranzando a quest'ora, riprendete voi, vai Claudio. Claudio è morto, Gianfranco. Figurati, ci altaleniamo, capito? Quando faccio colazione io stai pranzando tu, dai. E non è novità, dai, va bene. Detto ciò, Quirix per me mi tocca, dai. Ciao a tutti, ciao Daniele, ciao Gianfranco, Claudio, tutti quelli all'ascolto. Ciao. Vai Daniele. Ci aggiorniamo, dai. Buona carica, allora. Va bene, vai, riprendi Gianfranco. Sì, non c'è una piccola, quando io faccio colazione, A quell'ora vado a letto, a dormire di notte. No, vabbè. A parte gli scherzi, Gianfranco, ho problemi a dormire, mi devo imbottire di valeriana, melatonina, tutte quelle cose a base naturale e anche non a base naturale. E poi l'ansia per roba di casa, capito? Andava. E va bene, ci è rimasto qua. Claudio, ci sei? Massimiliano. Vabbè, si devono essere spostati. E quindi Marco, stai chiudendo, dai. No, sono qua, mi sto preparando, devo portare il camion, raga. Sono già quasi le sette e mezza. Quasi le 7.25, quindi mi sto preparando, dai, già sono qua. Ciao, sa che Marco ha chiuso. E va bene. Va bene, ok, va bene Gianfra, dai, rimaniamo d'accordo così e io adesso mi... No, Massimiliano mi ha mandato un'info che è arrivata gente, un minuto e già rientra subito. E niente, io adesso mi preparo e vado a portare il cane da lì, sennò poi si fa tardi. Lo sto un po' trascurando, c'è un sacco di cose da fare, il cane è sempre abbandonato dal tuo gas, dai. Adesso vado e faccio fare un giretto, una passeggiata e mi fumo una sigaretta all'aria, così non facciamo puzza, così ha detto Massimiliano. vabbè, già è giusto, alla fine, io se devo fumare già fumo dentro il caminetto e faccio salire il fumo su. No, io c'ho la cameretta mia, è stato inverno, mi finestra spalancata, dove c'ho il radio, assolutamente. Viene qualcuno qua, mai mi ha detto c'è le sigarette o niente, in macchina non fumo, quindi è importante quello, capito? C'è molta gente che si boce in macchina, andate a tenere la sigaretta, magari a metà finestrino aperto, gli si appiccica tutto il fumo addosso ed è chiaro che poi lo trasmetti quando ti metti a parlare. L'alito è quello che è, non va bene. Io evito queste cose, no, mai, assolutamente, da nessuna parte, al chiuso mai, all'aperto sì. Va bene, dai, io momentaneamente mi allontano, se ci siete a dopo vado a portare a Peppedu, ok? Ok, Cla, dai, fai pure già, io ancora per un po' già sono qua. Se fai chiamata dopo, dai, buona passeggiata dopo. No, Gianfranco, non fuma Filippo, non fuma, anzi, ti posso dire che se io sto fumando qua nella mia stanza, la finestra aperta, tutto, lui se ne va, ma io proprio mi avvicino alla finestra, non è, ci può essere anche 2 gradi, pure non me ne ha fatti nulla, se no mia moglie mi uccide, non andare per Poggiolo, poi c'è troppo freddo. Però è sempre aperta, giorno e notte la finestra, c'è la barriera, è sempre aperta. La chiudo solo per dire a mezzanotte, l'una quando mi corri, se no tutto il giorno sta aperta, quindi. Va bene ragazzi, a dopo. Ehi, ma starà rientrando Massimiliano o Daniele? Magari rimanete qua in ascolto, già riprende subito. Io ho 10 minuti e un quarto d'ora sto rientrando, ciao. Va bene, Cla, già siamo qua, dai. Ok, riprendi Gianfra. Ti sento, non ti sento che sto prendendo colpi dal canale 20, che c'è gente che mi stanno alquanto suicidando. No, già va bene come segnale, è che c'è Fabrizio che diciamo che linea d'aria è attaccata a casa e mi sta tirando una sussa. No, Fabrizio Chirigatto. Ho ripreso, scusate. Massimiliano, riprendi. Non ho seguito niente il discorso perché sono dovuto andare giù. Mi ha chiamato mia cognata e ho fatto un piccolo lavoretto veloce. No, c'era Claudio che si è allontanato per portare il cane a passeggio. E niente, siamo arrivati io e Gianfranco e tu. Cappa, ok, va bene. Ciao Gianfranco, buonasera, me l'ha ascoltato allora. Adesso, questa è merenda per me. Va bene, buona cena allora, avanti da via. Caparroggio, dai, buona carica allora Gianfra, ci ascoltiamo nel prossimo dopo se coincide, dai. Va bene, va bene. No, io stavo dicendo a Gianfra che sto prendendo colpi al canale 20. Che Fabrizio ancora non ha finito di fare le prove. Vabbè, dai, perché lì c'è bisogno di una radio più selettiva, là, tutto qua. Poi siete anche molto vicini con Fabrizio, quindi va bene così, va bene così, kappa. Invece se vado al 50 alto, a canali alti, non sento nessuno. No, non mi arriva neanche di striscio Fabrizio. Vabbè, vuol dire che sono altre frequenze, quindi. No, io sono contento che nell'87 mi sono sistemato lo smitter, adesso funziona alla grande. Cavolo, la sera, incantato. Ma era lento, capito, poi quando uno modulava, cioè, segnava bene, però poi rimaneva Santiago 7, 8, capito, non tornava più indietro. E c'era una vettina da mollare, nello smitterino gli ho fatto la lancetta leggermente più morbida, leggera, adesso già spero che segna meglio, va. I segnali già sono giusti. Anche a questa era successa la stessa cosa. La stessa cosa e si bloccava lo smitter, l'ho entrata appena la vettina, adesso funziona una meraviglia. E quello totale si trova uguale, va. Va bene, va bene, e mi sembra che adesso mi faccio l'impianto nella barra cingolata, mi metto la 5000, metto quello, metto un aiutino, un paio di 200 watt. Gaba, e quindi te lo metti anche lì, dai, e almeno ci sentiamo. Ma io veramente ce l'ho sempre avuto là, capito, siccome poi l'abbiamo portato in officina perché dovevamo fare dei lavori e quindi ho dovuto togliere tutto, là. Però già costa poco a rimetterlo. Ehi Massimiliano, ma dove sei? Qua in zona di Sassari? Sì, in zona di Arbara sono, là, quella zona lì. Ma già sono abbastanza in alto fino a Sassari. Abbiamo fatto già delle prove l'anno scorso che erano nella stessa zona e Porto Torres e Sassari, non c'ho problemi. Cava, va bene, la stai costruendo la camionata, la Sassari Olbia? Positivo. Cava, già va bene, ancora incasinata E abbastanza, e ci sono dei lotti che ancora sono fermi, quindi casino è Sassari Olbia, va. Ioia, per carità. Guarda, avant'ieri sono sceso a Tempio e hanno bloccato lo scorrimento veloce. Quindi devi fare tutti i paesini dalle 9:30 che sono partito. Fai alle 10, dai, sono messo in strada, 10:15. Fai il trasporto e tutto e tornare e si è fatta l'una. Funziona così, quando ci sono deviazioni e cose del genere, un macello. Ma guarda, noi che la stiamo facendo e più o meno ci abbiamo quasi tutti i lotti, ne ho già, non si può dire, in terra, capito? Non la busso già a vedere. Ti credo, perché l'altra volta sono sceso l'anno scorso, che sono sceso a Olbia, mi sembra, che c'era la deviazione là e deve entrare lo stesso per i paesini, entrare, fare, riuscire e riprendere la strada, ma la perdita di tempo era micidiale. No, vabbè, qua le deviazioni ci sono, ma i paesini non le fai. No, guarda, per scendere a tempo è diventata un'impresa. Più di un'ora ci ho messo a scendere. Più di un'ora. Perché poi le indicazioni non erano ben segnalate. C'era un punto, l'altro non sapevi più dove dovevi andare. Un casino. Lo so. Adesso c'è un altro casino, adesso devono bloccare la 131, ma è un giramento di scatola. Pure, cesso. Vabbè, anche i lavori vogliono fatti, ma cosa è, li facciano veloci e fatti bene soprattutto. Sì, non so se tu te ne sei mai accorto, però quando rientri verso Sassari, nella seconda galleria, diciamo quella lunga, prima di entrare, se guardi in alto a destra lì, c'è un costone che si sta attaccando. Eia, l'ho visto anche che l'hanno pubblicato su Facebook da poco. Uno ha messo la foto e c'è proprio un bel pezzo e si vede proprio la spaccatura. Sì, infatti, sono sicuro che devono fare proprio quello. Devono chiudere le due corsie perché se ne scende quello, le copre tutte e due le gallerie. A voglia. Il cavolo è bello pericoloso, Se non adesso, magari alle prossime piogge che fa d'inverno, quello ne scende come niente. Ma lì basta mettere due microcariche. Si butta giù, si carica tutto, si porta via, almeno sicuro. Infatti. Già hanno messo quella rete lì, a protezione, ma non so sino a quanto possa reggere andando via a fianco alle corsie. Secondo il masso che ne scende, ne straccia tutto. Ma Daniele, ma hai visto bene quel costone? Quel costone che ne sta scendendo saranno 5.000 metri cubi, ma secondo te una rete che mettono loro può tenere un masso del genere? Ma stai scherzando, ma manco... No, infatti, loro hanno messo per loro in sicurezza, no, mettendo le reti. Ma lì basta o niente, a prescindere si porta via tutto, Sì, ma infatti. Daniele, mi devo io un secondo allontanare, o ci sentiamo dopo? Ehi, Massimiliano, fai pure, dai, tanto io qua c'ho il piccolino che sto piazzando l'elicottero, dai. Già mi trovi qua. Kappa, dai, allora dopo, lì già si sente, dai, piazza l'elicottero, ciao, dopo. Ciao, Massimiliano, dopo. Hola, c'è nessuno?